E partiamo proprio da Riccardo, direi, con la prima domanda di stasera. Riccardo, la vostra passione vi ha unito in questo progetto. Come è nato e quanto è stato difficile portarlo avanti? Dunque, è nato praticamente da un ritrovamento su internet di una rivista che era un fascicolo, un inserto del fascicolo della Gazzetta dello Sport, che parlava dei campioni del giorno di quei tempi, che in quel momento erano più in voga, e ritrovando questo fascicolo io ho acquistato, e poi ho ritrovato con grande stupore e meraviglia gli aneddoti e le storie che io sentivo ai bar da ragazzo, che parlavano di questo Busoni in termini leggendari, in termini insomma veramente che mi sono rimasti impressi. E leggendo appunto questa rivista ho detto perché deve rimanere all'oscuro una cosa del genere, visto che ne parlavano appunto in tutta Italia attraverso le riviste eccetera, di farla conoscere anche alle nuove generazioni, perché penso che Busoni sia quello che ha fatto nascere la passione per il calcio a Montevarchi, perché se si pensa che Busoni viene nel 29-30, in Montevarchi nasce ufficialmente affiliato alla VGC in quell'epoca, 29-30, vince immediatamente due campionati e arriva alla prima divisione, e quindi con grandi successi, grande passione, io credo che Busoni appunto abbia contribuito in maniera determinante al successo del calcio a Montevarchi. Per esempio, se si pensa che è nato da pochi anni appunto in Montevarchi, Busoni poi viene venduto al Torino, viene già una squadra di Serie A a Montevarchi, che è il Torino perché nella trattativa della cessione. Se si vede poi la rivista Il Calcio Illustrato del 32, in cui si vede in prima pagina, nella rivista più importante dell'epoca, Busoni accanto con la maglia rosso-blu di Montevarchi accanto a Petrone, campione del mondo dell'Uruguay 1930, cioè dà l'idea di come Busoni sia stato importante per la diffusione e per il successo del calcio montevarchino. Poi se si pensa addirittura quando andò via le scene quasi di panico del pubblico, dei tifosi che lo accompagnarono a casa, lo accompagnarono alla stazione, centinaia di persone a abbracciarlo, e quindi io credo che quello che Montevarchi è oggi nasce, l'imprinting è stato dato in quel periodo storico con Giovanni Busoni. Torniamo un attimo a Montevarchi, torniamo all'Aquila. Con la nostra trasmissione noi diciamo spesso di fare un'indagine di quella che definiamo la montevarchinità, un neologismo che rappresenti un modo di vivere la vita alla montevarchina, come ci piace dire a noi. A questo proposito, cosa succedeva tornando a Montevarchi agli arrivi delle corse in relazione anche alle rivalità rispetto al pubblico? La rivalità, quella con San Giovanni, era sacra, quella c'era un... E se le davano anche, perché poi dicevo, ma lui ha fatto questo, non ha fatto quest'altro, invece noi in gara ognuno tirava l'acqua e il suo mulino, però dopo la gara, amici come prima, invece il pubblico nuove voleva sapere, ho visto delle beghe dopo l'arrivo, io ho visto delle beghe, ma si picchiano come pugili. Era un pretesto ottimo anche il cilismo, quindi per provare a far sì che la montevarchinità avesse la supremazia su chissà chi altro nemico. Sa, a differenza di ora c'è i divertimenti, c'è tante cose che allora non c'erano, e probabilmente il cilismo faceva sfogare un po' tutto quello che mancava, ecco, perché mancava tante cose allora, non è come ora. Ora si va sui binarini, allora era lotta per la vita, vero? Mi aggancio a questa tua fotografia, la lotta per la vita. Visto che tu correvi ai tempi in cui i grandi campioni Bartali e Coppi si davano battaglia, la famosissima foto dello scambio di borraccia fra Coppi e Bartali è proprio una cosa personale che io me la chiedo, pur non amando il ciclismo, pur non essendone attratto, me la chiedo fin da quando sono bambino, e mi sa che molti ascoltatori si faranno la stessa domanda. Amerigo, ma secondo te, ma quella borraccia l'ha passata Coppi a Bartali o viceversa? Quella borraccia non era una borraccia, era una bottiglia. l'hanno data a Bartali uno spettatore e lui l'ha passato in copia. Quindi per quello io ho parlato con Bartali, con Coppi sì, ma insomma era un po' non schicchignoso, era un po' timido, non lo so nemmeno. Con Bartali invece si parla bene, nonostante i suoi difetti, i difetti miei anche, però io con Bartali ho avuto sempre un... E lui mi diceva, quella borraccia lì non è una borraccia, è una bottiglia che l'hanno data a Bartali, uno spettatore, se l'ha passata. Infatti le borracce ce l'hanno tutte e due nelle portaborraccia. Quindi dipanato il mistero della borraccia direttamente dalla memoria che arriva da uno dei protagonisti dell'episodio, quindi direi che possiamo essere abbastanza allegri di aver trovato il bandolo della matassa. No, in realtà, siccome questa trasmissione si pone l'obiettivo di indagare quella che noi definiamo la Montevarchinità attraverso la storia della squadra cittadina e quindi del Montevarchi Calcio, in un modo o nell'altro quello che ti hai raccontato riporta in sintesi uno dei principi, chiamiamolo così, della Montevarchinità, il fatto che comunque al momento in cui il montevarchino entra allo stadio e tifa per i valori della sua squadra si trasforma, e magari anche se il bersaglio in questo caso delle offese è l'amico o il conoscente o anche il giocatore bandiera degli anni che furono, in questo caso passa sopra e comunque in sede di partita tutto è lecito. Credo che la montevarchinità non abbia niente a che fare con la professionalità di un calciatore, di uno che fa quella professione lì. Credo che a un calciatore si debba rimproverare se non onora la maglia, se non si impegna, se non fa il proprio dovere, a prescindere da qualunque sia la maglia che indossa. Poi il resto, vabbè, gli sportivi sono sportivi, ripeto, in quel momento ci sono state delle persone sicuramente che sono andate oltre le righe, però col tempo io poi mi sono accorto che in fondo non c'era cattiveria, non c'era, abbiamo recuperato i rapporti, io parlo tranquillamente con tutti. Il trauma, diciamo, più grosso fu il primo abbandono, quando da Montevarchi come calciatore andai a San Giovanni. Ecco, quello fu un momento inaspettato soprattutto, e sotto certi aspetti fu traumatico, insomma, fu traumatico anche per i miei genitori, per cui mio babbo in particolare, però ripeto, sono delle situazioni che non si sviluppano in un certo modo e alla fine poi ti ritrovi in una situazione che magari 3 giorni prima non avresti mai immaginato, ecco così. E se dovessi raccontarci un momento o due momenti che ti sono rimasti dentro particolarmente, di quelli per cui si dice non me li scorderò mai tutta la vita finché campo, in relazione ovviamente alla squadra o alla curva o comunque alla tua esperienza di Montevarchinità allo stadio? Allora, calcisticamente direi la partita Montevarchi-San Donà, che è stata la più epica probabilmente che ho vissuto io e tanti montevarchini come me. Un 4-2 rocambolesco e altro che la remontata del Barcellona, quella è stata una remontata ante litteram che ancora mi fa venire i brividi a ricordarmela, sotto l'acqua, sotto di 2-0, una squadra scomparsa ormai da panorami calcistici. Siamo andati a vincere 4-2 negli ultimi 6 minuti, è stata una cosa pazzesca, 2 invasioni di campo. Nei tempi in cui allo stadio c'erano persone assiepate nonostante la grande pioggia di quel giorno, che come Andrea ero presente allo stadio pure io, e nonostante questo c'erano migliaia e migliaia di persone assiepate allo stadio. Oggi purtroppo negli stadi italiani rimane molto più difficile vedere ancora scene di questo tipo, anche nelle categorie come potrebbe essere quella del Montevarchi. C'è un perché secondo te, Andrea, cioè come era la Montevarchi di quegli anni, quindi del 1995, e come è la Montevarchi del 2017? Ad esempio, cosa potrebbe essere cambiato secondo te per cui a Montevarchi, come in altri posti in tutta Italia e probabilmente anche in tutta Europa, se non addirittura in tutto il mondo, questo calo di presenze di appassionati è notevole, è sinceramente notevole. È notevolissimo e sotto gli occhi di tutti, assolutamente. diciamo che dal 94, diciamo da quell'anno lì, 94-95, quel campionato lì, insomma, a ora sono passati 22 anni, d'acqua sotto ponti ne è passata tanta, e il mondo è cambiato. È cambiato il mondo, è cambiato anche il calcio. È cambiato il calcio e l'approccio al calcio, e soprattutto è cambiato quello che è il rapporto della gente con il calcio. Se prima il calcio era un simbolo forte di vita spontanea di un paese, di una popolazione, di una comunità di tifosi che vivevano la propria relazione con un elemento anche territoriale della propria squadra, della propria zona, con una visceralità che oggi sarebbe quantomeno fuori luogo per tanti versi. Basta guardare alle categorie più importanti, tra virgolette, come Serie A e Serie B. Gli stadi ormai sono delle militarizzazioni, delle gabbie invivibili, contornelli, delimitazioni pazzesche, biglietti nominali. Il tutto nel tentativo di sostituire il tifoso classico con un tifoso da McDonald's, che è un'opinione personale mia, ma credo condivisa da tanti, che nella storia del calcio non è mai esistito. E la difficoltà proprio di far uscire fuori questo nuovo tifoso, questa particolarità, questa peculiarità di tifoso che fondamentalmente spende, è difficile da far nascere, ecco. Ci racconti quelle ore di attesa sotto al comune, se non ho capito male, dove erano radunati? Credo sia stata la sala consigliare attuale, dove il sindaco riunì, mi sembra sia stato Gregorini, i dirigenti del Montevarchi, tutti con questo Terziani, perché avevamo una scadenza impellente che entro le 14 Montevarchi sarebbe stato cancellato, dalla C1 cancellato dal calcio. E ricordo benissimo tanti di questi dirigenti di cui io ho parlato, evidentemente le cose stavano economicamente talmente male che scendevano sconsolati, scuotevano la testa, dicevano ragazzi non ci si fa, ragazzi non ci si fa. Io rimasi lì, perché credo si fosse stato anche in ferie in quel periodo, e quindi rimasi lì fino all'ultimo insieme a un manipolo che salimmo su, e quando Vasco uscì da quella, abbracciando il sindaco, da quella stanza, dicendoci ragazzi, anche una parola un po' irripetibile, in tasca di ossa, si continua a fare calcio a Montevarchi e ho ripianto un'altra volta. Io sono di lacrima facile andarmi con la gioia per il Montevarchi. Quella era una bella squadra che comprendeva tanti giocatori molto importanti, e anche lei, comunque Mauro, era uno di questi, ha rappresentato una pietra molto importante nella sua pur breve apparizione a Montevarchi di soli 2 anni, perché poi ha spiccato il volo. Ci racconti un po' questa storia che da Montevarchi l'ha lanciata nel palcoscenico, nel gotha del calcio italiano, vale a dire in Serie A. Sì, hai detto bene, per me Montevarchi è stato l'inizio, diciamo, di un, anche se pur breve, neanche molto luminoso, ma una carriera da calcistica. Dal Montevarchi andai al Verona in Serie A, logicamente venendo dalla quarta serie avevo davanti gente già strutturata con anni di Serie A alle spalle, non era così facile, e mi mandò in prestito al Cesena. Al Cesena ho fatto 2 anni, di cui il secondo arrivai secondo alla classifica dei cannonieri, l'anno in cui vinse Chinaglia, e forse è stato uno degli anni migliori della mia carriera e sicuramente una città che ricordo molto volentieri insieme a Montevarchi. Dal Cesena poi mi comprò il Genova, dal Genova al Taranto, Taranto Piacenza. Sempre Serie B, comunque ho fatto 10-11 campionati in Serie B. Però ti volevo fare un'altra piccola domanda. Te hai giocato negli anni 70 fondamentalmente, poi hai allenato negli anni dopo. Qual è secondo te la vera differenza che te hai percepito da allenatore odierno a giocatore degli anni 70? Cioè, com'è cambiato? Com'è che si è evoluto il calcio in categorie che non sono la scintillante Serie A, ma che sono comunque categorie dove da un certo punto di vista il sudore, comunque il sangue, se me lo permetti, scorre davvero, perché sono categorie più vere. La differenza che magari ci può essere stato da quando io ero giovane è che noi avevamo poco noi avevamo il calcio. Io mi ricordo che da ragazzini bastava trovare una piazza, bastava trovare un posto, dove un campo dove si andava a giocare a pallone, e quindi il pallone era la cosa principale, era il pallone che ci teneva uniti. Ci ritrovavamo, allora non c'era telefonini, non c'era mica nulla, e quindi la differenza che potrei dire è che forse oggi hanno, i ragazzi hanno molto di più di quello che sapeva noi, e anche questa fame, questa voglia, questa determinazione che forse sapeva noi, ora magari qualcuno manca, perché hanno tutto, hanno qualsiasi cosa, non gli manca niente, voglio dire. Noi per qualsiasi cosa dovevamo lottare, dovevamo mordere, come si dice, per ottenerla. Oggi forse è un pochino più facile, ma il mondo è cambiato, è il mondo che va avanti, è il mondo che si diversificano le cose, ecco. Ai miei tempi, quando ero giovane io, o ragazzino io, il calcio era la cosa che più ci teneva aggregati, che più ci ritrovavamo e facevamo le squadre per andare a giocare. Oggi magari ci sono anche altre priorità o altre necessità o altre voglie, non lo so, da parte di questi ragazzi. Però io la cosa che ho notato magari è questa qui, è che qualche volta allenandoli vedo che magari gli mancano questi stimoli, e quindi bisogna che gliele faccia trovare l'allenatore, e penso che ora l'allenatore più bravo sia quello che riesce a stimolarli e a fargli trovare queste sensazioni, diciamo. Questo punto di vista per noi è nuovo, in effetti, sì, vedere con gli occhi del bambino. In molti ci hanno raccontato altri tipi di episodi, però questo aspetto è molto interessante. E allora ti chiedo, quando eri in gradinata con il nonno, che tipo di emozione provavi nel vedere la curva sud, che in quegli anni era sempre esaurita, visto anche la militanza in C1 della squadra, C2, C1, comunque campionati nazionali molto importanti, ed era molto colorata, molto rumorosa, e lì sentivi già la voglia di quelle cose che ti fanno dire un giorno ci sarò anch'io? Naturalmente, con gli occhi di bambino di allora, guardavo stupito quello che era il settore più rumoroso, più colorato, fatto da tifosi più sanguigni e passionali. È però una passione che, devo essere sincero, è scattata in me qualche anno più tardi, perché anche l'interesse e la passione verso il mondo del tifo in generale, verso il mondo ultras, è venuta a cavallo fra i 14 e i 15 anni. È lì che veramente, frequentando poi la curva in un Montevarchi che comunque, c'è da dire, cominciava purtroppo il suo declino, è lì che è scattata quella scintilla che arriva fino ad oggi, quel fuoco ancora oggi comunque non si è spento. Il mio passaggio da mero tifoso di gradinata insieme al nonno a essere un sanguigno ultra in fasce in curva è stato proprio in quegli anni lì, a cavallo fra i 14 e i 15 anni, finite le medie e cominciate le scuole superiori. Lì ho cominciato a, più che a vedere, a vivere veramente la curva, a capire quello che era il movimento ultras, che era già molto consapevole a Montevarchi, venuto da bellissimi anni nella C1, quindi voi ragazzi anche che siete Vitte e Claudio specialmente, avevate già avuto tante esperienze come tifosi in giro per l'Italia al fianco di Montevarchi, e io sono cresciuto in quegli anni con questo bagaglio, con voi che già avevate avuto grosse esperienze da questo punto di vista, e via via che gli anni poi sono passati e che hanno accompagnato, ripeto, purtroppo in Montevarchi nel suo declino, che poi è arrivato al fallimento del 2011. Però per me è stato un percorso incredibile, dove ho imparato tutto e di più in Curva Sud, in quello che sono tutte le attività della curva del Montevarchi, i gemellaggi con Perugia, Empoli, le amicizie con Ancona, con Lanciano,

Secondo me, io vado molto più indietro, secondo me la passione per l'Aquila è tramandata nelle famiglie, secondo me. Io ti dico nella mia pelle, ci domandano, dice, ma come mai a Montevarchi c'è questa passione? Perché Montevarchi, calcio a Montevarchi, è vissuto nelle famiglie. Cioè io te lo dico io, perché mio nonno mi dice, che ha fatto in Montevarchi? A 98 anni ancora, mi domanda ancora, che è tramandato di come io sto facendo con mio figliolo Diego, che lo porta allo stadio tutte le domeniche, e lui ora si è preso anche lui, è tramandato nelle famiglie da nonni, padri, figlioli, tutto. Secondo me è anche un lavoro, diciamo, nostro di curva, di coinvolgere gente e portarla, perché parlare di curva oggi è molto difficile, cioè, perché le differenze fra noi e le grosse curve, noi la domenica, senza dire, noi facciamo del sociale fuori dal normale, noi ci distinguiamo da quelle altre cose delle curve che, cioè, fanno delle leggi per delle situazioni, però prendono tutti, cioè noi tutte le domeniche abbiamo gente che, metti caso, non saprebbe nemmeno dove andare la domenica, e facciamo, secondo me nell'anno che ho passato lì, che sono più di 30 anni, secondo me abbiamo fatto anche di bene a parecchie persone, anche se qualche volta abbiamo sbagliato, logicamente, quello non c'è ombra di dubbio, però secondo me a oggi, dico, a Montevarchi, la curva a Montevarchi è aggregazione, il sociale, siccome questo sociale parecchie persone si riempiono la bocca, il sociale, ma il sociale va fatto con le mani, va fatto veramente, va fatto aggregazione. Noi chi partecipa lì tutte le domeniche fa aggregazione, perché a Montevarchi non c'è dei posti in cui ci può essere una situazione di genere. Poi logicamente ci danno le gambe perché siamo ultras, sì, ma basta mettere il nome ultras, fa già copertina e tutto, e... quindi una lotta, fra virgolette, fra quello che si sente di essere e quello di cui siamo dipinti. Però anni e anni di tifo svolto in una certa maniera, con una certa passione che poi si tange, e d'altra parte chi lo fa solo per moda o chi lo fa tanto per fare è destinato a morire presto, invece la curva Montevarchi sembra destinata a riprendere vigore. Queste cose si toccano con mano anche fuori da Montevarchi, si coltivano amicizie molto importanti. Nel 1988, allo spareggio con la Massese a Empoli, lì nacque il gemellaggio con gli empolesi, e fu quell'anno lì, fa conto, e ora è l'88, da ora siamo quasi a 40 anni, siamo quasi, e lì nacque il gemellaggio con gli empolesi, che ora è sempre vivo. E poi dopo sono nate altre amicizie con Perugini, con dei gruppi della curva nord Perugia, poi c'è Lancianesi, perché girando tutte le città, tutte le domeniche, non era che tutte le domeniche dovevi fare a cazzotti con qualunque persona, trovavi anche che della gente ti accoglieva, metti caso, mia home, negli ultimi tempi che qui si andava in trasferta tipo in 200 o 300, cioè è passato anche qualche anno e si andava una o due macchine e arrivava in qualche posto, ci accoglievano, e tipo Lancianesi, si fece un'amicizia a Lanciano. A Cava dei Tirreni si arrivò con un pullman doppio, mi ricordo che si arrivò con il pullman che si entrava nella stradina, appena ci si entrava nella stradina, un pullman doppio a Cava, stadio in mezzo a tutte le case diroccate e tutto, i cavesi vennero da noi, ci portarono casse d'acqua e tutto, insomma, sono... Insomma, nel lungo andare di frequentare la curva abbiamo anche instaurato amicizie, gemellaggi. Io ho gente di Empoli che è una vita, le conosco, c'ho Valerio, Bacchetta, questa gente qui, che per me sono come fratelli. Noi, quando ci si vede, non ci viene lacrima all'occhio, ma quasi fra di noi. E poi nel lungo andare abbiamo fatto tante amicizie. Ora, negli ultimi anni tante amicizie, diciamo che tante tifoserie ne abbiamo trovate, però insomma è servito, come ho detto prima, anche fare questi anni di gavetta, perché io con tanti altri, e secondo me in merito anche di tanti altri, hanno tenuto accesa questa fiammellina che si stava per spengere negli anni bui, perché quella fiammellina era sempre accesa, e poi è ritornato un fuoco grande, per ritornato una grande sud, perché lasciare tutto andare anche quando andava via riesce a tutti, invece seguire ancora. E a quei tempi, quando andava male in Montevarchi, c'era parecchie persone, ci davano conto, ma che ci è andato a fare a vedere in Montevarchi? E noi, il nostro ideale era andare avanti e portare avanti la curva sud, e quella fiammellina è rimasta accesa piano piano, e ora è tornato un fuoco che arde. Sei partito a 6 anni dai Pulcinissimi, per arrivare alla prima squadra, poi esperienze fuori, esperienze in prima squadra molto soddisfacenti, come ci hai raccontato, alcune esperienze da allenatore, anche se hai dovuto interrompere la carriera per motivi di lavoro. Ma come succede a tanti giocatori, poi è difficile smettere, è difficile togliersi davvero gli scarpini, e tanti vanno a finire in campionati amatoriali. Tu invece no. Tu hai, diciamo, concluso la tua carriera da calciatore nella squadra aziendale che, mi dicono, era una squadra molto forte. Ma come è nata questa cosa? È stata la tua voglia di tornare a giocare? È stata la tua voglia di non smettere? E quali altri calciatori c'erano? Perché te sei stato un calciatore vero, ma se la squadra era forte, mi immagino ce ne siano stati anche altri. Devo dirti che nacque questa esperienza andando a lavorare in questa magnifica ditta, perché poi, anche se ora non è più Behring Istituto De Angeli e l'ha presa il gruppo Fareva francese, devo dire che i tedeschi si sono rapportati per più di 20 anni con noi in maniera fantastica. Non mi sembrava, tutt'oggi vado molto volentieri al lavoro, ma posso garantirvi in quegli anni non era lavoro, era andare a divertirsi, letteralmente, perché fra gli allenamenti, i tornei facevamo all'estero, abbiamo vinto tutto, e i mondiali li abbiamo sempre vinti, e il centenario addirittura, sono state esperienze dove ci portavano addirittura in ritiro 15 giorni. E la squadra era formata da Grossi, ha fatto la serie di Figline, Lorenzo Grossi, un portierone, veramente è stato in zona Terranova, Figline, quando c'erano queste squadre, il Montevarchi e Ranci, e loro facevano la serie D. Quindi Roncolini Andrea, è stato Andrea, non solo lavoriamo insieme, un amico e poi ci ho giocato insieme, ma è stato veramente un ragazzo che ha giocato insieme a Vialli, a Cremona, questo solo per sfortuna, aveva delle qualità incredibili. Sacchi, penso, una volta mi raccontava, aveva visto come il ragazzo il profilo più importante che aveva allenato lui, quindi per dirvi, Michelini, Gabrielli, Gennaro, che ha giocato anche con me a Montevarchi, siamo stati insieme, la punta, Gennaro Gabrielli esordì anche lui molto giovane a Montevarchi, addirittura con Balleri. Poi altri, ora mi sfugge un po' il nome, che magari hanno fatto categorie di prima, promozione, però per dirvi che era una squadra veramente importante. E all'estero giocavamo con i tedeschi, vi faccio un esempio, o i francesi, che in quegli anni lì il semiprofessionismo erano calciatori di Serie C, perché all'estero i calciatori di Serie C, come un periodo è stato anche in Italia, erano semiprofessionisti. Quindi per farvi capire il valore anche delle altre squadre, veramente una competizione elevatissima. E poi l'ambiente tedesco, riferito a una ditta che ha 30.000-40.000 operai dentro a lavorare, operai impiegati, cioè la ditta comprende 40.000 persone. Noi eravamo sulle 700 in quel momento, quindi per farvi capire anche la scelta, li abbiamo sempre battuti e tutte le volte che li battevamo non si riuscivano loro a capacitare come con questa squadra riuscivamo a battere i giocatori che avevano fatto anche carriere di Serie B qualcuno. E anche le ragazze lo sentono, ecco. Io vi do un aneddoto, perché il calcio femminile, il ganzo di calcio femminile, che la Serie A è vicina, cioè te un giocatore di Serie A ora per incontrarlo tu dovresti fare salti mortali. Una giocatrice di Serie A, un dirigente di Serie A femminile, e ci sta di trovarla ai bar davvero fuori da uno stadio di Serie A, quindi è tutto un altro mondo. E vi posso dire che l'anno scorso sono stato in contatto con quello che è responsabile di mercato, una volta era di Verona, ora è di Brescia, è un ragazzo di Firenze, prima era della Fiorentina, chiedendo qualche consiglio, perché comunque non si può crescere come società, è giusto chiedere a chi ne sa di più di noi. Mi ha detto una serie di cose, che ha detto che secondo lui bastavano già per la serie dove sera per far felici e per far acchiappare e per far invogliare le ragazze a venire a Montevarchi. E la mia risposta è, ho detto, ecco, questa non ci sta di già. Ad esempio uno staff medio che segue le ragazze, delle strutture, tutto pagato, tutto. E ha fatto, no, a Montevarchi già si garantisce. Da di là mi ha detto, allora siamo un pezzo avanti. Quindi comunque anche queste sono soddisfazioni, perché queste stanno in Serie A e Champions League, quindi... E infatti io mi ricordo che quando abbiamo giocato l'anno scorso la finale di Supercoppa Toscana per aver vinto il nostro girone di eccellenza, c'era a seguire la partita una ragazza che parlava nordico, e allora la nostra curiosità fu di chiederle per quale motivo fosse a vedere quella partita, e lei ci disse che era una calciatrice della Fiorentina in quel momento e che quindi, appassionata di calcio, era lì per vedere il Montevarchi. E ti faccio una domanda un po' così, che mi è venuta alla volée. Tu hai vissuto da calciatore la passione del tifo montevarchino. Torniamo a Montevarchi. Secondo te, se Montevarchi avesse uno stadio con gli spalti più vicini al campo, proprio per effetto della grande passione che la gente ha sia in curva quanto in tribuna quanto in gradinata ai tempi in cui tu giocavi, aiuterebbe la squadra a vincere le partite? Sarebbe determinante? Sicuramente sì. Non lo so se economicamente è una cosa fattibile. Per fare una cosa con uno stadio così, io credo che c'è bisogno di più forza insieme. Però uno stadio senza la pista dell'atletica, con uno stadio dimensionato a quello che è poi lo spettacolo, certamente aiuta a vincere. Bene Aldo, come diceva Fumino, andiamo indietro nel tempo. Raccontaci quello che ti ricordi della Montevarchi della tua infanzia. Tuo padre portiere per il Montevarchi Calcio, te che ovviamente hai iniziato a frequentare i campi e l'allora stadio che non era il Gastone Brilliperi ma era il campo in Piazza della Repubblica. Che Montevarchi era quella di quegli anni? Cosa ti ricordi esattamente? Ma io mi ricordo che quando giocava il mio babbo qui c'era Pugliese, ci giocava poi chi ci giocava, c'era i Banchelli, c'erano tanti altri giocatori, ora c'era un che però bisognerebbe controllarsi la situazione e vi potrei dire poi tutti gli altri giocatori ci giocavano. Però io da ragazzo lì mi ricordo Aldo Scaramucci, quando era un in campo, il suo babbo gli sfilava dietro il forcone perché lui voleva giocare in campo. Si levava le scarpe perché il suo babbo se no lo stroncava. E poi veniva là, ma faceva certe volate, Aldo, da mettersi male a prima, veramente, guarda. Poi dopo, sai, cominciai a andare proprio sullo stadio e ci portò i Bonciani e davanti più giorno mi trovai una bestia di calciatore che era più di 1,90 m, quasi, io ebbi quasi paura perché avevo 13 anni, sicché, volevo dire, era uno che veniva dalla Roma, lasciamo perdere, però mi prese subito in considerazione, non ebbe proprio problemi né paura di nulla. Cominciò a allenarmi e da lì ho continuato a giocare sempre con i ragazzi di Montevarchi, delle riserve, però mi divertivo parecchio. Poi dopo è cominciata la storia che da oggi da domani, mi ricordo poi fece un campionato di prima categoria con loro e da lì poi presi il volo perché addetti a Badia San Salvatore su in Montagnata e ci trovai la Fiorentina e ci trovai anche Aldo Scaramucci, sicché erano ritirati lassù e io rimasi lì a giocare perché si fece un campionato di promozione a quell'epoca e allora ho avuto l'occasione anche di giocare contro di loro, contro i Sarti, i Primi, c'era Montuori, cioè c'era tutti i grandi giocatori della Fiorentina. Sicché per me fu una grande soddisfazione trovarsi a giocare contro una squadra anche amichevole, insomma di Serie A, veramente. Poi l'anno finì di giocare lassù, fece un bel campionato e venne a Montevarchi. A Montevarchi c'era Mario Semoli allenatore, anche lui mi voleva molto bene, era una persona d'oro. E mi fece cominciare a giocare in prima squadra. C'era anche Piero Senesi insieme a me, però c'era anche Gheduzzi e Cavallini. Poi c'era aspetto a quell'altro portiere, come si chiamava, i Giorgetti. Però in Montevarchi si trovava in una situazione un pochino di difficoltà. Quella era di Bologna, quella era di Frato e mi mandò a casa e il Canale giocò tutti i campionati, ci andò anche di là. E quindi uno inizia a vedere le curve, a frequentare le curve fin da giovane, come è capitato a te Giovanni, poi chiaramente uno se ne innamora, la frequenta e poi te ne sei andato comunque da Montevarchi. In Spagna segui il calcio, cioè inevitabilmente la passione per il tifo, per la curva e comunque anche per il gioco te la sei portata dietro oppure è rimasta qua? No, in parte è rimasta qua perché sì, però sì, segui il calcio e seguo le curve e sinceramente non c'è niente a che vedere con le curve italiane. Proprio in Spagna tifoserie curve che veramente si possano chiamare curve, secondo me ce n'è veramente poche. A parte la curva dell'Atletico di Madrid, che secondo me è una delle meglio di Spagna, e squadroni come Barcellona e Real Madrid, secondo me sì, chiaro che hanno la curva, però tu puoi paragonare, che ne so, una curva come ci può avere Barcellona e Real Madrid con una curva, per parlare di grandi squadre, come ci può avere il Milan, la Roma o il Napoli, cioè proprio non c'è paragone. Io sono stato una volta, due volte a vedere Barcellona, una tra l'altro era una semifinale di Coppa dei Campioni contro il Milan. Tifo esisteva da parte dei tifosi di Barcellona. Curve che si possono chiamare curve in Spagna: Atletico di Madrid, Betis di Siviglia, Siviglia, e poi squadre minori, tipo una curva secondo me che merita tutto il rispetto del mondo è la curva di Rayo Vallecano, che Valleja è un, semplicemente un quartiere di Madrid tra virgolette, perché è grosso come Firenze, però c'hanno uno stadio che c'entrerà 10.000 persone, la curva tutto il rispetto del mondo. E se no poi si passa a squadre un po' minori, una grandissima curva è il Real Oviedo, che sono in Serie B, che io la paragono, mi sembra di vedere tipo la curva dell'Atalanta, come calore e anche come ignoranza, ci siamo belli capiti. E poco più, il resto c'hanno il tifo e magari in alcuni momenti partecipa tutto lo stadio a questo tifo, però sono cori sporadici, sono cose sporadiche, curve come curve ce n'è veramente poi. Bene Giorgio, quindi tu direttamente dalla capitale, giovanissimo alla fine, ti sei trovato a vivere questa esperienza entusiasmante a livello sportivo a Montevarchi. Però il Giorgio uomo, o comunque giovane uomo di quei tempi, che veniva dalla capitale, veniva da Roma, come ha vissuto l'impatto con un paese di provincia alla fine immerso nella campagna? Ma sai, di provincia relativo, e perché anche a Velletri ci sono stato quasi, dunque dai 16 fino ai 23, quindi sono stato 7 anni a Velletri, anche Velletri è un paese, diciamo, di provincia, va bene, per cui ero un po' abituato a questa realtà. Chiaramente tu cambi regione, Toscana e tutta una serie di cose, insomma, nuove, però in camera con me c'erano altri due romani, per cui dal punto di vista solo della parlata era come sta a casa. E in campo cambiava un pochettino qualcosa, però dai, poi quando tu fai il professionista e di tutto quanto in maniera un po' diversa. Però ecco, devo dire che la differenza, diciamo, che a Montevarchi, appunto, tu respiravi anche tra tifosi, dalla gente che magari ti fermava per via Roma, quando ancora via Roma il sabato era stracolma purtroppo di gente, lo dico con molto rancore, perché adesso vedi magari via Roma il sabato che è tutta vuota, fa un pochettino male. Allora era tutta quanta un'altra situazione. Mi ricordo, io venivo da Roma e parlando appunto con un po' di amici dicevo a quelli di Roma quando tornavo a casa: ma sapete che tengo la macchina aperta con lo stereo dentro e non me lo rubano mai? Questa era una cosa che dicevo sempre, non ci credevo, cioè no, non è possibile. Sì, guarda, tengo la macchina aperta, lo stereo è sempre lì, ancora non mi hanno rubato. Per dire, insomma, un pochettino la differenza che ci vuole essere tra Roma e Montevarchi. Purtroppo le cose sono un po' cambiate, ma sono cambiate qui a Montevarchi, così come a Roma, così come a tutta Italia. E comunque, riallacciandoci anche sul fatto che appunto te parlavi di aver iniziato a frequentare il Brilli Peri come stadio fin da piccolissimo, in relazione alle trasformazioni che te hai visto anche a livello proprio di costruzione dello stadio, ad oggi cosa ti auguri per il futuro di Montevarchi in relazione proprio alla struttura, alla casa della montevarchinità, come la possiamo definire? Perché comunque sappiamo che se il Montevarchi mai prossimamente decidesse o riuscisse a salire di categoria, sarebbe necessaria un'imponente, presumibilmente, ristrutturazione, che non dovrebbe o che non potrebbe essere così facile oggi come oggi, considerando i costi o comunque le possibilità. Un capellino diverso. Io oggi mi domandavo, da me solo, prima di venire in trasmissione, qui da voi, se il maledetto gennaio di 96 non succedeva quello che succedeva a Vasco, se una casa come Montevarchi nel 2017 avrebbe potuto dire abbiamo messo anche la Serie B. Perché io vedo Serie A, Serie B, e avendo